Maria o Luca, non ha giù di mocardavaldina in campo, io sono comunque per la Zaccaria, ma niente. Sì, adesso la prossima volta le farò un po' al sugo piccante, con le patate. Certo, guarda che anche le lumachine si possono fare così, con il sughetto. Anche le lumachine sono buone, le ho mangiate anch'io tante volte, anche così, le lumachine con il sughetto. E all'Ughiria, alla voglia, ma che... E il vignemuccia è sempre un bel... Manda calce! Andiamo Giulio, cazzo! Ma che? E quella che ne mangia di questa cosa? Oh, che non ne mangia? A che ne mangia sono di padre a voi? Che non ne mangia è quella che non l'ha compreso questa da grandi. Vero o nata lì? Pucci che schifo, Pucci! Manda calce! Paga e dai rapidino, non ne mangia! Oh, yeah. Vabbè, dai. Ui, vabbè, ui, c'è mangiato cose. Questi rotelli di calamari, questi di giammani. Questi rotelli. Gianelli. Gianelli, sì. Gianelli. La parte con un sughetto particolare. Buoni. E più riso con i piselli. Riso con i piselli. E quegli anelli fatti con un sughetto particolare. Ah, Nathalie, ti piacciono gli anelli a te, con un sughetto particolare. Nathalie, Alfa 1. Io ho finito adesso di mangiare. Ehi, magna, che cresci. glielo credo. Hai fatto bene, Nathalie, hai fatto bene. Tanto era ora per te, ancora per me, presto. Io di solito, 8:15, massimo 8:30, sono a tavola. Sempre così. Le nostre abitudini sono quelle. Andiamo! Cazzo! Ma ben avvero, però, ma ben avvero. Colpa di Natalino, La colpa di Natalino, no. Natalino, la colpa tua, Cazzo, sta colpevole, sì, Perciò sappi che devi pagare, che sei colpevole. C'ho il cane, che vuoi? Chi vuole un gaglio? È davvero un pezzo, un fagioletto da dire. Davvero un letto di gaglio, davvero, che sia parmigiano però, se no non li piace anche su cane. Taglielo l'asso, si è masso, se no lì ci può parare. E allora, il subinicolo mi sarà. Bravo. Ancora 0-0 sono, dicevi. Inghilterra e Germania. Ancora 0-0 sono. Oh Giulio, l'Italia quando è che gioca? Venerdì, Italia-Belgio. Cava. Speriamo che vinca. Ma mi sa che stanno facendo un po' troppo barra questi giornalisti sportivi per l'Italia. Speriamo che vinca l'Italia. Certo, il Belgio è forte. Io ho paura che col Belgio non ce la facciamo. Speriamo bene, io spero di sbagliarmi, ma ho quella sensazione, col Belgio. Il Belgio corre, altro che se corre, oltre che sono tecnicamente molto validi, solo che abbiamo un vantaggio, vedi? Abbiamo un vantaggio, che ci sono i due migliori giocatori del Belgio che sono fortunati. Però questo non significa niente alle volte, però per noi è un vantaggio. De Bruyne e Hazard sono due grandissimi giocatori. Ma staremo a vedere. Oh, scusate un attimo, mi assento, arrivo subito. Ok, Luca. Così è Zaccarini. Perché nell'ultima partita si sono sfortunati tutti e due. Adesso vediamo se recuperano. Io, per il bene dell'uomo, vorrei che recuperassero. Per il bene dell'Italia, invece, vorrei che lo recuperassero. Capito, Natali? Perché togliere quei due giocatori al Belgio per noi sarebbe un bel vantaggio. Natà, comunque, l'abbiamo sentito sull'uno, con l'altro baracchino, avevo l'altro baracchino in ascolto. Era proprio sintonizzato sull'uno. abbia sentito la salita. Io già mi ho fatto l'antenino adesso. Quando l'ho piatto, è quasi pronto tutto. Perché la sapevo, la tabaracchina accesa avevo, e stavo provando questo, e l'avevo lasciato così da ieri addirittura. Quando accendo l'alimentatore si accende anche quello, per cui, e ho sentito che la batteria, ma ero sintonizzato su 10 anche, che la Luca, anzi a dire la verità prima c'era Claudio da Porto Torres, con l'amico di Porto Torres. E dunque mi ha fatto piacere di sentirlo. Poi è arrivato Luca. Luca, ci sei? Luca Rievi, sì? E beh, è andata lì, ritirato, sì. No, aspetta che... Ma sorvente protettivo, come l'inefetano, dedicato con un tetano. Non mi sono ritirato. È che stavo facendo cosa? Ok. Ancora stanno vaccinando, sono già le 7:30, le 7:20, stanno ancora vaccinando, li ho sentiti adesso. Mia moglie dice che sta cambiando il tempo pure, sta facendo freschetto. Oh, qui il tempo è sempre ultimo, no, non c'è niente da dire, sempre caldo, un bel. Senti, ah vabbè, basso come volume. No, sto ascoltando anche quelli che dirigono il traffico dei vaccini, no? Stanno ancora lavorando, stanno a quest'ora, ci sono ancora. Lo so, li stavo ascoltando pure io, ma se no si sentono, e quindi lo spento. Ah, tu li senti? Oh, sì. Ho un ricevitorino qua, della Uniden, da tavolo, mica. Bellino, riceve tutto con un antenino con lineare di macchina, sta ascoltando, figurati. Avevo questa antenna qui e l'ho messa fuori dalla finestra e prende, riesco a ricevere il link nazionale, l'R7 alfa, insomma ne ricevo di cosa. Ok, allora prova anche il meteo del mare, prova anche quello, che è 156, 425 la frequenza, ripeto, 156, 425, oppure l'altra è 161, 900. Controllate quelli se li senti, anche quelli dovreste sentire bene. L'ho eliminato quello, c'ho tutti i canali della Marina, dell'Aeronautica, se li voglio sentire. Capito, quelli li ho tutti eliminati, perché mi bloccavano lo scanner. Guide sempre andendo, chiedo della Marina. Questo della Marina sempre andendo, a Dublino, continuamente, su 156, 425. Le notizie del mare. C'ho tutti i canali della Marina, poi quelli dell'aeronautica. È bello fare il ricevitore questo, sembra così, ma. Certo che sì. Aspetta che controllo se c'è in questo momento, ma penso di sì. Basta utilizzare il coso, lo shift e toglierlo. Neanche il manuale di quello per adesso è nata lì. Della Marina lì. Capito? E anche quelli dell'aeronautica, se li voglio ascoltare. Addirittura l'avevo messo in memoria nei privati, no? In modo che quando scannerizzavo, però si fermava sempre. Ciao! Già ci sono, sì, stavo ascoltando quello della Marina, già ci sono. Come dici tu, che è 156, 4 e 50, credo. In realtà è un robot, è un nastro che viene aggiornato automaticamente. 4,25, 156, 4,25, oppure 161, 900. No, sono due cose diverse. Quello 125 è un robot automatico, l'altro invece è Cagliari Radio, cagliari radio che parlano normalmente, spesso, solo quando c'è il bollettino, senti che anche quello è robotizzato. Sì, lo so, beh, ve lo faccio. Visibilità. Sì, sono 30 anni che lo conosco il canale. ma è solo così, è automatico, capito? A volte è anche molto disturbato perché ogni tanto si scassa. Beh certo, io addirittura ricevo anche quello dell'acustica, ti puoi immaginare, notiziario dell'acustica, probabilmente roba francese. Va bene, adesso non mi ricordo quella la frequenza qual è, perché ci sono tante frequenze che c'è, però vai su e capisci di tutte, boh. Mentre invece non ho più sentito, ad esempio, i vigili, prima li sentivo sempre, ma adesso non li sento più, o quelli sono in digitale adesso. E quelli non li sentirai più. E quindi non li sentirò più, no, ma certo, se ci vuole l'apparecchio digitale. Però quelli erano, mi sembra, 465 125, se ricordo bene. Sì, manco con l'apparecchio digitale, sì. Beh, sicuramente saranno schermate, senza dubbio. Vabbè, meglio così. Li ho sentiti per anni e anni e anni. Io quando ce l'avevo sempre in bottega, ce l'avevo sempre acceso, sentivo tutti i movimenti di tutto il giorno. Dalla mattina alla sera, di tutti i movimenti, tutte le macchine che hanno mandato carri attrezzi e tutte le multe che hanno fatto, tutte le ho sentite, tutte indistintamente. Ma per anni, non per un giorno, no, anni, ce l'avevo sempre acceso in falegnameria e dunque era sempre in ascolto, lavorando e nei momenti che non attaccavo le macchine li sentivo. Sì, già lo so, anch'io li sentivo, loro e gli altri pure. Tu lo dovevi passare tutti in un sistema un po' così e non li possiamo più sentire. Per non parlare poi delle telefonate che sentivo con la OR, la OR1000 o la OR2000, mi ricordo benissimo, anzi veniva, molto spesso veniva Giovanni Ciclone, se ricorderai Giovanni Ciclone e Natali, veniva in bottega e gliel'avevo ordinato io, la OR1000 e si sentivano le telefonate, certe telefonate sentivamo, una volta l'abbiamo sentita una bella curiosa che non ti posso raccontare adesso qua al baracchino, non te la posso raccontare, ma si parlava di sesso praticamente. E uno o due ne abbiamo sentito di quella roba. Oh yeah. Vabbè, poi avevo, in quegli anni lì, io parlo di tantissimi anni fa, avevo una radio normale, un semplice ricevitore radio, no? A modulazione frequenza anche, tra l'altro, onde medie a modulazione frequenza e anche onde lunghe. E l'avevo tarato e riuscivo a sentire anche i movimenti che facevano dall'asinara, dal carcere dell'asinara. Avevo toccato le medie frequenze, era una radio vecchissima che mi avevano dato e avevo fatto una regolazione e sono riuscito a trovare la frequenza della radio dell'asinara, delle carceri dell'asinara, e ne ho sentito lì. Però quelli che chiacchieravano di più erano i vigili urbani. Sì, quelli c'erano dalla mattina alla sera continuamente, no? Quelli sì, certo che sì. E lo so, tu te lo ricordi quando c'era quelle guardie giurate che c'erano lì al carcere della Dinara? Parlavamo a Baracchino, te lo ricordi quelle lì? Sì, a Braccio di Ferro, mi ricordo. Ce n'erano tre o quattro erano che parlavamo la notte fino a tardi, loro di servizio e noi parlavamo col baracchino, parlavamo, adesso non mi ricordo più i nomi relativi, ma io li sentivo proprio sparati, perché io da qui alla Genova arrivo sparato. Signore, ne abbiamo fatto di cotte e di crude. Buonasera a tutti. Mimi. Cata, chi non muore si rivede, o si risente perlomeno. Ciao Marco. Ecco. Ciao a tutti, non so che tutto ci sia, saluto tutti indistintamente, anche quelli d'ascolto, io ho appena mangiato, sto entrando poco perché c'è sempre da fare, magari o a casa o fuori di casa, e quindi dai, quando posso ascolto, quando non posso non ascolto, ok? Riprenda Giulio che ho sentito, Giulio e Natalino al momento, avanti. Ok, ciao di nuovo Marco, sì, dovrebbe esserci anche Gianfranco, adesso lo tiriamo in ballo. Gianfranco! Ma non sono sicuro se questo è Marco vero, o qualche fantasma, così qualche clone, ma Marco, ma sei tu sicuro? Potrei essere un bot pure. Un bot o un robot? Vabbè, prendiamoti per quello che sei, dai. Accontentiamoci, ma cansa di meglio. Riprendi Natalino. Io non mi vuole salutare oggi questo Marco. Ehi, vabbè già capiterà che lo trovo. Ehi Natalino, ho salutato a tutti perché non so nemmeno che ci sia in ruota. Dai, io sono venuto qua adesso, sto finendo di mangiare qualcosa, un'insalata e rimango all'ascolto. Dai, oggi sono veramente stanco. Oggi ho dovuto fare più roba del previsto, dai. Riprendete. Vai Natalino, alza un po' la voce però, parla vicino al mic. Euia, questo Marco che sempre stanco, boh. Ieri ero stanco io, perché non avevo dormito quasi tutta la notte, perché mi sono svegliato intorno all'una e non ho dormito tutta la notte, e ieri ero un po' stanco. Questa stamattina invece me ne sono alzato bello fresco, pimpante, proprio che potevo spaccare la roccia con un martellino, non con una mazza, con un martellino, di quanto ero pimpante. Vai Gianfranco. Ma vabbè, non ti vuoi mai essere tu a Marco questa, a spaccare legna, a spaccare roccia, a fare questi lavori così che lo stancano. Mi volete morto? No, assolutamente no, ma che beato. Ti vogliamo più allenato, ecco, mettiamola così, più allenato ti vogliamo. Sì, perché alla fine è questione di allenamento, capito? Quando ingrani poi riesci a fare più del dovuto. E comunque mare ancora niente, non ha giù proprio gana, non ne ho voglia, è un lavoro, hanno ragione. A portarsi ombrellone, borsa, o zaino che sia, sedietta, chi la vuole, è un lavoro, è un lavoro. Poi se non trovi parcheggio devi aspettare, andando, se torni a casa non trovi parcheggio, lo stesso devi tripolare per trovare un posto anche in punta di, al corno della forca, quindi è un lavoro. Perché anche tu le conosci, le curve di parole, vicino al corno della forca. Natalì, parla più forte, ti sento basso. Più forte, Cioè, se c'hai il mic da palma, parla vicino, come faccio io, però di lato, in modo da non spettacolare così. Se vuoi un mio giudizio per quanto riguarda il mare, per come la penso io, da 20 anni a questa parte, non hai perso niente, perché io al mare non ci sto più andando da 20 anni. Prima avevo fatto una grande indigestione di campeggio, mesi e mesi e mesi, tutti gli anni, e per cui me lo sono consumato, la voglia me la sono consumata tutto in una volta. Adesso sono 20 anni che quando vado al mare vado solamente la sera a prendere un po' d'aria e basta, al fresco, quando ormai il sole è tramontato. Sono così. Poi per il resto non ci andrò mai più. No, assolutamente no. Vabbè, vai già qua. Io ci vado quando ho tempo solo, perché sono sempre impegnato. Preferisco, tra le due cose, preferisco fare allenamento come stamane, ero in bici, ho fatto un po' di un po', io ho visto che la temperatura sta salendo in maniera un po' esagerata, pensavo anzi quando mi sono alzato alle 6 che fosse giornata di temporale o diciamo, almeno di pioggia, invece poi si è ripresa di colpa, è iniziato il caldo. Sì, sì, io ho seguito anche la tappa stasera, ho seguito. Vabbè, comunque, va bene lo stesso, non c'è problema. Anche oggi meno male non c'erano cadute, come ieri, ieri era micidiale, hanno fatto un po' quelle cadute, per carità. Ieri, avanti ieri, sempre cadendo questi circuiti. Io a un certo momento mi sono fatto un pochino una mia idea. Per me i circuiti di oggi non sanno correre, perché non è possibile che tutte le volte che fanno una corsa che ci siano delle cadute. Boh. Prima non... Sì, prima, anche prima c'erano le cadute, ma non così, così di frequente come oggi. Oggi sono troppo scelerate. Non va bene. Per me dovrebbero correre con più giudizio. Con più giudizio. Non così da scalmanati. Per conto mio oggi corrono molti ciclisti o per mancanza di esperienza, ok, non lo so, forse saranno quelli neoprofessionisti che ancora non hanno molta esperienza, allora provocano degli incidenti. Però a questo punto ho tirato una conclusione io. Per me oggi, il corridore di oggi, generalizzando chiaramente, non sanno correre, per conto mio. Così la penso io, già fatto. Vabbè, comunque. È sempre uno sport faticoso, comunque. Riprendi, Marco, una pedalata no, neanche, ti uccide lo stesso. No, già dopo tanti ma tanti anni che non andavo più in bici, ho provato a pigliare una mountain bike qualche anno fa e l'impatto è stato drammatico, scioccante. L'ho rivenduta pochi giorni dopo, non è per me, troppo caldo, troppo tutto, non mi piace più, proprio a zero totale. Natali, ti volevo chiedere, ti stai attrezzando un po' per ascoltare qualcosa in digitale, no? Radio Autori, ho capito bene? Cosa mia, se non c'è niente è inutile che me lo compro, se ci fosse stato qualcosa di da ascoltare me l'avrei anche preso. Ma sapete cos'è, la roba succulenta che già non si poteva ascoltare non c'è più e non ci sarà mai più, restano radioattori se ci sono punti attivi, però allora i ricevitori anche portatili partono dai 500 euro, c'è una follia. Al limite a te interesserebbe il DMR principalmente, presumo, al limite basta un portatile ricetrasmittente che abbia le funzioni giuste, dual slot, non so come sia. Una cosa che non ho capito è cosa siano questi codici colore, John Fla. Una specie di un qualcosa per, come una chiave per riuscire a beccare i ponti, no? Dimmelo tu, com'è la storia? Beh, oramai il termine non si usa più, codice colore, si usa l'ID. Sono dei numeri che si danno sia ai gruppi, se ci sono tante persone che entrano in quel gruppo, cosiddetto TG, tal più gruppo, oppure sono quando vai in DM, direct mode, che vuol dire modo diretto, è semplicemente un numero che può, nel caso del DMR amatoriale, viene associato al nominativo. Tutto lì, non c'è niente di particolarmente complicato, ecco, sono gli altri che la fanno complicata. Sì, scusate, sto parlando in verticale un attimino, ho capito già fra più o meno, dai. Allora, signori Bedi, vi comunico che a questo punto, vedendo il risultato che c'è in questo momento, in questa partita, se finisce così, diciamo che l'Italia ha delle buonissime probabilità di poter vincere anche. Perché no? Qui si è considerato che la Germania sta per uscire dal campionato perché sta perdendo 1-0, per cui a questo punto, guarda, io direi che la squadra che potrebbe inseguire più tanto di tutti rispetto alle altre è tutta la Germania, parlando dell'Italia. A questo punto, se esce la Germania, abbiamo molte, ma molte possibilità che ce la possiamo giocare. Speriamo bene. Beh, così almeno gli italiani sono contenti di aver vinto il campionato. È un po' meno, magari molti penso di essere licenziati perché toglieranno il blocco dei licenziamenti, ecco. Come si dice, ma adesso non me lo ricordo, o è una cosa o l'altra. No, perché vedendo il risultato di questo momento, che poi tra l'altro mancano solamente 6 minuti e mezzo alla fine della partita, più i minuti di recupero, sta vincendo l'Inghilterra 1-0 contro la Germania. Dunque, se finisce così, la Germania se ne può tornare in patria e tanti saluti al campionato europeo. Per cui, allora, a quel punto io posso dire che l'Italia potrebbe avere ottime possibilità, speriamo bene che non si affruscino, ma se giocano con cuore come hanno giocato queste partite, speriamo bene, le possibilità ci sarebbero, dai. Vabbè, vedremo. Vai Natali, riprendi. Un attimo che stavo piazzandomi l'antennino. L'antennino, sempre indaffarato con l'antennino, sì. Io ci ho messo un pezzo di filo, guarda, nell'altro baracchino che ho qui vicino, ci ho messo un pezzo di filo, infatti già fa, era sintonizzato sull'uno, appena l'ho acceso ho sentito che era batterista sull'uno, ma ero anche sul 10, e stavo parlando con quell'amico di Porto Torres, con Claudio di Porto Torres, e poi subito è arrivato Luca, che stavo parlando anche con Luca. E l'Inghilterra vince, buonasera a tutti. Ciao Claudio, speriamo bene, mancano 5 minuti appena, 5 minuti più il 2-0, oh. No, sì, 2-0, valido il gol, 2-0 per l'Inghilterra, bella, la Germania se ne può andare a casa. Ciao Claudio. Buonasera a tutti, ciao, ho sentito Marco di sfuggita, lontano. Solito Natale, Ante Giulio, buonasera a tutti comunque. KK. Ti ho chiamato già fra in DMR ma non mi ha risposto, vabbè se l'ho spento. Ok, buonasera a tutti comunque, adesso solo per un saluto naturalmente come faccio abitualmente e me ne sto andando. Ciao. Sì, Claudio, ciao, buonasera. No, che siccome stavo una borretta a Natalino, che sta facendo i pensieri e i contropensieri, immaginandosi chissà che cosa, e quindi mi sono dimenticato di spostarlo sulla frequenza d'ascolto, tutto lì. Non ti preoccupare, tanto qua c'è il phone acceso, quindi non capisco l'incidente. Dai, ci sentiamo, buona serata a tutti, piacere avervi ascoltato, ciao. Ciao Claudio, ben sentito. Benissimo. Ciao a tutti, ciao Benive, ciao Marcolì. Claudio. Ehi, mi sto guardando la partita, poi c'è un casino qua che hanno acceso il fuoco, qua ci vanno i capigliani, dai. Ci sentiamo ragazzi, ciao. Ciao Claudio. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao. Mario, quel gol, Mario. 2-0 per l'Inghilterra, dai. Bene, sono contento. Sono contento che escano i tedeschi. Aria, vai a casa Germania, non ci tornare più. Vai Luca, ben rientrato. Marco Cagarella. Non mi viene la vocina lui. Luca Peribella. E tu devi tingere le chiappe. Oi, che tempi. Ciao Ruben, ben sentito. Natalino, riprendi. Natalino si sta dopandomi. Vai Gianfra. Sì, un attimino perché mi è arrivata una comunicazione di lavoro urgente. Che si dice? Oh, io stavo ascoltando un po' loro, me stavo mangiucchiando qualcosa. Oggi, vabbè, tutto commissione fuori, roba in casa fatta, anzi mi sono dimenticato anche di lavare la friggitrice, porca miseria, proprio quella la volevo lavare oggi. cioè è tutta incollata, mi sai Giulio quando è bordi come diventa colla. Vai Giulio, riprendi. Ok Marco. Fai bene, mangia Marco, così cresci, ti fai grande. vabbè dai, comunque, va bene così. Natali, vediamo se è rientrato, questo antennino sistemato vai, sì o no? Già è lunga la sistemazione questo antennino, bobo. Vabbè dai, comunque, va bene lo stesso. Gianfranco è al telefono, Luca ma riprendi tu, vai. Mi ha rimesso avvertendo che poi tra un po' vado a prendermi l'autobus. Ah, non ce l'hai? Io pensavo che avessi le ali tu e volavi come gli uccelli. Io pensavo che tu avessi come Icaro, non ce l'hai le ali? Magari giù, di video ti intendi, così non fa con un'assicurazione né bullo né nuda. Te lo credo. E non fai manca se strada, a chi ha dato un cadura? Sui tetti delle case. Luca, c'ho io lo scooter in garage fermo da anni che se ne sta ridendo. Maledetto, poi c'ho per te. E poi magari arrivo alla fine che lo devi portare al meccanico perché non ti parte più, ma non lo accende. No, la batteria era andata già dall'epoca. Io c'ho una batteria di macchina sempre in carica qua, la dovrei portare giù, provare a farlo partire. Però se il cilindro, se sento che è inchiodato il cilindro, non insisto, al limite la faccio portare dal motocarro, dal meccanico, così lo sblocca e... Ecco, è un peccato, era semi nuovo quel Liberty, semi nuovo, parabrezza, c'aveva roba di 6 o 7 caschi, jet, mezzo jet, integrale, di tutto va via. Tolto, se la prendete a me. Ma lui c'era già l'acquirente, dice se mai la dovessi vendere, io c'avevo già l'acquirente, però... Cioè venderla mi dispiace, tenla ferma pure, stavo pensando se quasi di metterla a posto. C'è un piccolo problemino, non al motore, ma penso che siano i rulli consumati, cioè il motore sale di giri, però è un po' lenta a pigliare velocità. Sicuramente c'è la frizione o i rulli o quello che da rifare, capito? La trasmissione sarebbe meglio. Io sono aggazzato, adesso me la posso fare pure io, volendo. Guarda, se trovo le foto te le mando. È che sono foto fatte con cellulari giocattolo, Però, vabbè, se le trovo te le mando, dai. Riprendi Giulio. Io mi devo assentare che faccio il caffè adesso, per me e per mamma, ok? Vai Giulio. Ok, va. A tu il motorino non ce l'hai più perché il tuo motorino, Luca? No, l'ho fatto fuori giù, c'avevo lo zip, quello bianco, l'ho fatto fuori perché era lì uno sgabuzzino, stava marcendo, no, ho preferito venderlo e infatti sto pensando di prendere uno scooterone, uno scooter 125. Ecco, ho fatto una macchinetta Luca, dunque, altro che scooter, cosa te ne vai della moto? Ormai anche tu hai una certa età. Sei vecchio, però fai meglio la macchina, dai. Giù, già va bene anche la moto, ma per la macchina la moto me la posso permettere. Cioè, non è che me la comprerei, giù, ma riesco a comprarla, poi a camparla. Non è un lavoro, come fai? Non so, quello già hai ragione, quello già è vero. Però sarebbe l'ideale, ma anche la moto, sempre quello, la devo circolare. Tu mi avrai di ma uno è il costo della moto. L'altro è il costo della macchina per mantenerla, certamente che sì, però la comodità non c'è paragone, ma non c'è bisogno che te lo dica, già lo sai. E vabbè, cosa vuoi che ti dica, Luca? Non so cosa dirti, se tu non la puoi mantenere, allora fai bene a non impergolarti in questo impegno. Ma comunque, arriveranno tempi migliori, Luca. Purtroppo le possibilità sono quelle. Sono minori, diciamo, molto. Minori. Ah, più in là si vedrà. Vediamo un po'. Sì, no, sono la macchina mai più utile. Poi, come hai detto tu prima, non c'ho più 20 anni. E sì. Però la moto non sarebbe male, dai. Non sarebbe male. Anche uno scooter 125. Lo so. Sì, no, ho premesso che a me la moto è sempre piaciuta, ma io ormai sono tantissimi anni che non guido più la moto a due ruote, diciamo, però avevo la moto, un motocarro, quello che avevo sino a qualche anno fa, ma quello era per il lavoro, per cui faccio dentro 35 anni, non arrivo, che avevo 35 anni quel motocarro. Però la moto mi è sempre piaciuta lo stesso, ma non è che potevo tenermi tutte queste cose, ma non le facevo. Poi la moto andava benissimo anche quella che avevo, era la 501, la Ferrari praticamente, la P501, 187 di cilindrata era, ma andava, andava, era una meraviglia, 75 me li faceva. Immagino. Sì, quelle sono lo stesso moto da battaglia, per lavoro vanno più che bene. Sono di fare un piccolo trasloco, no, ma mai ti capita qualche viaggettino piccolo, tipo lavatrice, qualche frigo così, ti fai qualche soldino. Vabbè, dai, giù, io questo passaggio ne approfitto e ti saluto perché vado in cucina e così dopo vado a prendermi l'autobus. Ci sentiamo domani giù. Ciao, buona cena, saluta a Marco quando rientra. Ciao, riprendi. Ok, ciao Luca, ci sentiamo. Sì, con quel motocarro io ho caricato migliaia di metri cubi di legname e migliaia di vapori da consegnare. Vabbè, ciao, ci sentiamo Luca, alle prossime. Ciao Luca, buon ritorno, buon proseguimento, dai. E allora, Marco, a te va bene, cazzo, non ti interessa. La Germania se ne deve ritornare a casa, perché ha perso, per cui è eliminata. Beh, per quanto io non sia proprio appassionato, io le partite dell'Italia le ho viste tutte complete, una pezza un po', no? Poi l'ultimissima l'ho vista dall'inizio alla fine, insomma tutte le partite ho guardato, l'Italia ha vinto. Adesso non bisogna interrompere il fluido, capito? Come con la storia dei fantozzi, ti ricordi la mano sotto il sedere giocando al casino? E quindi mi guardo solo l'Italia, in poche parole Giulio, però mi fa piacere quando vince. E grazie a Dio mica gli hanno annullato anche il primo gol a quelli là, se no finivo forse in parità, chi lo sa, o i rigori, peggio. Buonasera, sì, in effetti diciamo che anche ha avuto quella fortuna che quel gol gliel'hanno annullato, era fuori gioco, però io dico che le regole del fuori gioco fanno schifo, perché tu perché hai 3 centimetri di piede oltre la linea della palla non va bene, dai, non sono partite per conto mio quelle assolutamente passate, non è possibile che uno fa un gol così perché sono 3 centimetri o un piede. Il fuorigioco io lo vedo che debba essere almeno un metro come era una volta, oggi invece oggi ragazzi sta 3 mm fuori gioco e vai, annullato il gol, ma vai, esce veramente, ma che tipo di regolamento è questo, una vergogna. Comunque sta contento perché era contro l'Italia, si è annullato, tu mi dai, ma sei di parte? Beh certo che sono di parte, sono italiano, io lo grido. Avanti l'amico, chi era? Propagazione. Sì, ma io credevo fosse più semplice contro gli austriaci, poi ci hai visto come si compattavano, come diceva il tipo, cioè smontavano tutta la preparazione, i passaggi per avvicinarsi alla loro area. Vabbè. Beh, indubbiamente, quello sì. Vediamo un po' se lo sentiamo questo amico, chi è? Avanti l'amico su questo canale 10, chi sei? Da dove stai trasmettendo? Qui la Sardegna, che modula, Sassa di città, avanti. No, si è squaleggiato, se n'è andato. Se n'è andato Marco, non lo sento più. Buongiorno, vediamo un po' se lo ascolti adesso. Avanti l'amico che chiama. Sassari Sardegna risponde, avanti. No, non lo sento io. 7. Lo senti tu, io non lo sento. Allora, io l'ascolto con QSB, ha raggiunto massimo 7 di segnale, ma la modulazione è veramente bassa. Modulazione 2, come volume. Vediamo se l'amico mi ascolta ancora. Mi puoi confermare la zona di modulazione? No, niente, dai. Poi c'ho 3 watt e mezzo, Giulio. 3 watt e mezzo, sono nudo e crudo, come al solito. Sì, ma lui sente, perché poc'anzi è arrivato con un segnale abbastanza buono. Però poi è sparito. Sì, anch'io sentivo che stava modulando, ma non capivo l'accidente di quello che diceva, perché era incomprensibile nella maniera più assoluta. Arrivava basso di segnale, bassissimo, a livello di 3-4, però prima in un certo momento è arrivato quasi 9, per cui, vabbè, la preparazione purtroppo è così. Capito, Marco? Essendo di parte, chiaramente faccio tifo per l'Italia, però io vedo un regolamento troppo sporco per conto mio, perché se tu sei in linea con l'altro giocatore e hai solamente un piede che ti spunta 3 cm oltre la linea del difensore, non puoi tu dargli un gol annullato, perché non è possibile, dai. Sono regolamenti fasulli, assurdi. Quello lì vuol dire falsare le partite per conto mio. No, non va bene. Non sono assolutamente d'accordo. Vabbè, comunque. Il regolamento è così, vale per tutti, ma no, non sono d'accordo, ecco. Vabbè. Sì, sì, ho notato. L'hanno detto proprio, questione di centimetri. Lì diciamo che dovrebbe essere... Vabbè, lì lo fanno per la correttezza... Prima era molto aleatorio, mi Giulio, andare a occhiometro era molto a umma umma, però in effetti anch'io potrei dire, se uno è palesemente fuori gioco allora è un conto, però lì, pensa se fosse successo a noi, ci saremmo mangiati, no, ci hai capito, ci saremmo mangiati le... Sì, sul piano del patriottismo, chiaro che sono contento, però... Per me, per conto mio, quella partita l'Italia l'ha persa, per conto mio, anche se poi in realtà l'ha vinta, però per me l'ha persa, perché stava perdendo 1-0 e mancava poco al termine e non so se fosse riuscita a recuperare, se avessero confermato la resa. Io sono per le regole, sì, perché è giusto che le regole si debbano rispettare, però io me la prendo con la federazione, con l'UEFA, sono regole assurde, perché non è possibile che un giocatore, perché ha un piede con un numero più grande di scarpe, più di quello del difensore, e tu me lo metti fuori gioco, ma vai e vai al cinema. Per avere un fuori gioco deve essere marcato con una certa distanza. Anche un metro va bene, andrebbe bene. E così ne perde anche la qualità dello spettacolo del calcio. Perché quando si fa gol è spettacolo, ma quando tu il gol lo annulli è solo nervosismo da parte della squadra che non gli viene assegnato il gol. E soprattutto nervoso diventa, purtroppo è così, però regolamento dicono, vabbè, andiamo avanti così, cosa vuoi dire? Diciamo che comunque può, cioè, aiuta tutti o penalizza tutti questo sistema. In quel caso è tornato comodo a noi che gli hanno lasciato il gol. Che fare il colpo di testa di quel tipo, hai visto, col centro della testa, mi pare quello lì era il gol, è passato tra le gambe di qualcuno, è entrato, mi pare che fosse quello, adesso non voglio sbagliare, che la mia memoria è un po' corta. Oh Giulio, io purtroppo però devo staccare perché avevo promesso il caffè a mamma, ancora non ho iniziato a fare nulla. Ok, se rientra Natalino al limite, ora che sono le 8 adesso andrei a mangiare anche tu, dai, sentiamo, ciao Natalino, Claudio, Luca, vabbè tutti quelli all'ascolto, io chiudo per il tuo esecutivo, ciao Giulio, ciao. Ok, ciao, ciao Marco. Ci sentiamo alle prossime, dai. E allora ci do anch'io. Tanto sono rimasto solo. Ciao a tutti, se c'è rimasto qualcuno ancora all'ascolto. Ciao Claudio, se c'è all'ascolto ancora. Suppongo di sì. Ciao Gianfranco, non so se ti sei liberato dell'impegno di lavoro. Comunque salutoni, grazie per la chiacchieratina, ciao Natalino. Salutoni a tutti e ringraziamenti a tutti quanti. Ci sentiamo domani. Ciao ciao, ciao. Marco lì ci sei? Anda bene Mela, non c'è più nessuno. Chi è? Ciao Tania, Roberto. Ui, è bene Roberto. Ascolta, voglio fare una prova un attimo, se ti sento qua con l'antennino, aspetta un attimo. Provo. Ma dove? 1, 2, 3, prova la radio, attenzione nel canale 10. Se vi ascolti con l'antennino, sarete con l'antennino interno, dice. È orientato male. Non mi ricordo com'era orientato prima l'antennino, quello con la base magnetica. E non riesci a sentire, tu tieni presente, io con quella radiolina che c'ha l'antenna, sarà 15 cm di antenna, io ti ascolto benissimo, poco fa ero, stavo guardando la partita, ho acceso un attimino, c'eravate tu, Giulia, cosa, vi ascoltavo tutti bene. Va bene, io non sono riuscito a orientarla adesso perché l'ho appena piazzato, io ci parlavo pure con quell'antennino, è una PLC 800. E non riesce a sentirmi? No, perché evidentemente non è nella posizione giusta. Che strano, io cazzo vi ascoltavo tutti, ti ripeto, con una radiolina che è come un pacchetto di sigarette, con l'antennina sua sarà 15 cm, benissimo, tutti ascolto, anche con il portatore se riusciamo ad ascoltare. Ehi vabbè, ma questo è un baracchino, il baracchino omologato, quello piccolino, che l'ho attaccato a quell'antennino, adesso vediamo, quando parla la gente me la oriento e una volta che sento allora è orientata bene e ci posso anche parlare. Ma è strano che non riesci ad ascoltare a me, cacchio, non per vantarmi, ma già ce l'ho una bella irradiazione all'antenna. No, orientata così com'è non riesco. Ma scusa, ma non è un'antenna omnidirezionale, cosa devi orientare? Già lo so io, non ti preoccupare. Già, siccome dritta non ci sta, la devo usare piegata, capito? Ah, la stai mettendo con il catena orizzontale? Non è in orizzontale, è quasi, è piegata, solo che bisogna sapere come va orientata. Perché l'altra volta l'avevo orientata bene e parlavo pure con quell'antennino, figurati. Ma scusa, tu dove abito io già lo sai, orientala più o meno in quella direzione lì? No, vuole orientata da un'altra parte, ma lo faccio domani, dai. Adesso me ne vado a fare altra cosa. Capito. Ci sentiamo alle prossime, Robè. Ciao, io intanto devo uscire adesso, ho acceso 10 minuti, ho detto sto facendo ora, vediamo se c'era qualcuno, comunque buon tutto, buona carica o qualunque cosa devi fare, dai. Faccio una chiamata generale qua su 10, se nel frattempo volete avere qualcuno, se no faccio un ascolto in qualche canale. Attenzione 10, c'è qualcuno? Prova a parlare, l'ho girata da un'altra parte. Qualcuno è in ascolto. C'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno sul 10?